1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:19 minuti, cari ascoltatori, e la 186esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata. E allora vi ricordo che alle 8:30 avremo ospite Matteo Renzi, presidente del Consiglio, per parlare soprattutto del referendum, ma non solo. E vi ricordo che questo è lo spazio della rassegna stampa dedicato dunque alla lettura dei giornali di 24 mattino. Siamo pronti a vedere che cosa ci offrono i quotidiani? Andiamo a sfogliarli. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh? Eccoli qui i titoli con l'apertura del Sole 24 Ore, la sanità, le novità in arrivo per ticket, ricoveri e cure. Poi la maggior parte dei quotidiani apre sulla Germania. C'è anche la Merkel che ha deciso di correre per la quarta volta da cancelliera. La prima volta era nel 2005. Mi ricandido, la quarta volta di Angela Merkel, l'apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, Merkel, resto contro i populisti. Francia, la destra, cancella Sarkozy. Perde alle primarie e si ritira a vita privata. La Stampa, Merkel sfida i populisti in campo contro l'odio e per la democrazia. E il Messaggero, Merkel ci riprova altri 4 anni. Venendo invece alle notizie italiane, dopo il referendum, case requisite per i profughi. Il Giornale, è il piano del governo Viminale pronto all'esproprio nei comuni anti-immigrati. Il Fatto Quotidiano invece, la RAI imbosca Verdini, non va in onda il dibattito registrato con la Meloni. Libero invece se la prende col Movimento 5 Stelle, grillini falsari, sono proprio come gli altri, se non peggio. Per presentare le liste in Sicilia, il Movimento 5 Stelle ha rubato e taroccato le firme. Mentre Il Giorno, Renzi, il no è per la casta, dunque il referendum. Va bene, iniziamo dalle scuole. Molti ragazzi che stanno andando a scuola, molte famiglie che si stanno orientando per capire che tipo di scuole prendere, soprattutto le scuole medie per il futuro, per i propri ragazzi, ragazzini, ragazzine che stanno facendo la quinta elementare. Ovviamente c'è lo stesso problema, la stessa situazione anche per chi deve scegliere le scuole superiori. Oggi il Messaggero mette la classifica secondo il RAV, cioè il rapporto di autovalutazione delle scuole italiane, pubblicato nel portale Scuola in Chiaro e accessibile al Ministero dell'Istruzione, riguardo alle scuole medie. Ecco quelle migliori. Pagina 11 del Messaggero, le percentuali di promossi nel ciclo successivo permettono di valutare la capacità degli istituti di preparare e orientare. Sono 550.000 i ragazzi che passano alle superiori invece, e anche per loro è l'ora della scelta, decisivo il supporto dei loro insegnanti, ma Lorena Loiacono racconta a pagina 11 del Messaggero intanto la classifica delle migliori medie. Allora, come sono state valutate appunto? Sono state valutate dalla percentuale di promossi nel ciclo successivo. Per andare a ritroso e dire che la migliore media, secondo questa classifica, Roma è la San Benedetto, da cui esce l'89,6% dei ragazzi che, seguendo i consigli degli ex professori, vengono promossi al primo anno delle superiori. Al secondo posto è il Gianicolo, la scuola media Gianicolo, al terzo posto la scuola media Petrassi. Per Milano al primo posto la scuola media Monteverdi. Al secondo posto la scuola media di Via Salerno e al terzo la scuola media Verdi. A Napoli, Solimena, Falcone Russo, le prime 3. Comunque c'è la classifica sul Messaggero e poi sul portale del Ministero. La trovate, le migliori scuole medie, le migliori scuole superiori. Era una classifica apparsa la scorsa settimana. C'è anche la ricerca Eduscopio della Fondazione Agnelli, anche quella è una classifica molto interessante da valutare. A proposito di scuola, questa invece è una delle classiche notizie di cui si farebbe francamente a meno, ma succedono. Romina Marceca racconta a pagina 17 di Repubblica: picchiato dai genitori per aver punito il figlio. Io prof, ora ho paura. Palermo, calci e pugni all'ingresso di una scuola media da parte dei genitori di un allievo che è stato rimproverato e messo in punizione a scuola. È stato un agguato, sono ancora sotto shock, racconta questa insegnante alla media Caponnetto. Una cosa del genere non mi era mai capitata in 5 anni di insegnamento. Che è successo? 2 allievi, invece di seguire la lezione, chiacchierano tra loro. Prima li faccio spostare al primo banco, poi, visto che non accennano di smettere, li metto alla porta. Il professore, 49 anni, ha sempre utilizzato metodi alternativi per catturare l'attenzione degli studenti. Anche quel giorno, a fine lezione, ho distribuito le caramelle ai miei allievi. Le caramelle. Vabbè. Questa tralascio, le caramelle alle scuole, perché devi dare le caramelle? Vabbè, comunque, a un allievo gli ho detto che non mi aspettavo da lui, mi ha fatto il gestaccio, è sempre stato educato, pensavo fosse finita lì, e invece il giorno dopo, qualche giorno dopo a scuola, sta entrando, viene chiamato dai genitori, si avvicina e calci e pugni, lasciato lì quasi svenuto. La famosa collaborazione tra genitori e insegnanti, eh? Vabbè, a proposito di genitori, c'è questa ricerca invece sul Giorno, a pagina 2 e 3. Perché i genitori, dico? Perché sono soprattutto loro, gli adulti, i drogati di social. È il titolo principale del Giorno, drogati di social. Troppi adulti ossessionati dallo smartphone che lasciano solo per fare la doccia, a volte neanche per fare la doccia, se li comprano per andare, che siano resistenti all'acqua in modo da poter chattare anche da lì. SOS adulti malati di smartphone, più vulnerabili dei ragazzini, schiavi del touchscreen, non hanno anticorpi per i nuovi media. Alessandro Bellardetti racconta, pagina 2 del Giorno, di questi nuove vittime di questa rivoluzione. È quello che ha spiegato Paolo Ferri, docente di tecnologie didattiche, teoria e tecnica dei nuovi media alla Bicocca di Milano. La vera dipendenza da smartphone colpisce persone sempre più avanti con l'età. Si parla di 2 ore al giorno di utilizzo, diventano 46 al mese, 1 ora e 54 nella fascia tra i 35 e i 54 anni, 1 ora e mezza tra i 55 e i 74 anni. Che fare? Beh, parla anche uno psichiatra, lo psichiatra Federico Tognoni. Vanno curati come gli alcolisti, dice questo psichiatra, riguardo alle dipendenze da social dei, soprattutto degli adulti, fascia di mezza età. Oh, visto che dite non ce ne sono mai buone notizie, ve ne do una. E riguarda tra l'altro un immigrato che è diventato un eroe del web, in questo caso, eroe grazie a un post di Facebook. Ha fatto 80 chilometri, 40 andare, 40 tornare, da Lecce a Tuglie. È un marocchino di 39 anni, Abdul, che vive ora con un po' di imbarazzo questa notorietà, per restituire un portafogli trovato. Ha restituito un portafogli con 250 euro, ma soprattutto carte di credito, bancomat, documenti di ogni tipo. E allora dice, in un primo momento ho pensato di bucare una cassetta della posta, poi ho detto, ma così è rischioso. E allora ha preso, è partito, è andato a consegnare, dopo averlo contattato, il portafogli a colui che lo aveva perso. Lecce, la storia di Abdul, in viaggio 80 chilometri per ridare un portafogli a un ambulante marocchino. Il proprietario, stupito, dice, ora mi vergogno dei pregiudizi che posso aver avuto. Magari lì a dire, me l'ha rubato uno straniero, in realtà uno straniero nessuno l'ha rubato, lo straniero l'ha trovato e gliel'ha portato. Vabbè, questo è raccontato dal Messaggero come storia, pagina 14, da Alessandro Cellini. È sicuramente una storia positiva, no? Visto che se ne leggono tante negative sui giornali. Questa invece, la storia che racconta Gian Antonio Stella, è sicuramente l'articolo che mi fa della giornata, l'articolo da mani sul volante se siete alla guida. È una storia molto lunga, anche dolorosa, perché ricorda una persona che si è tolto la vita. Adolfo Parmaliana, docente universitario a Messina, ex militante del DS, si è suicidato nel 2008 per la vergogna di essere stato messo sotto accusa dalla magistratura per diffamazione. E ora si scopre, con tanto di sentenza, Gian Antonio Stella, pagina 17 del Corriere, i falsi dossier preparati dal procuratore sul professore antimafia che si è tolto la vita. Condannato in Cassazione il magistrato, ed è Franco Antonio Cassata, ex procuratore generale di Messina, condannato, pensate a quanto, a 800 euro, è lui che ha preparato nei confronti di questo professore antimafia che si è suicidato, si è tolto la vita, dei dossier falsi. Era proprio lui il corvo, l'allora procuratore generale messinese, lo dice la sentenza della Cassazione che inchioda Franco Antonio Cassata, lungo il più influente magistrato della città sullo stretto, per una colpa infamante. La diffamazione pluriaggravata con un dossier anonimo di un morto, Adolfo Parmaliana, docente suicida, perché stremato dalla fatica di battersi contro il malaffare di una certa poltiglia giudiziaria. La condanna è piccola piccola, 800 euro, e spropositatamente bassa, per fare un esempio, rispetto ai 9 mesi di carcere inflitti nel 2013 a un senegalese che ha rubato 2 confezioni di latte in polvere dal supermercato. Ma è una condanna fondamentale per una città dove quel giudice era potentissimo e che consente ora alla vedova del morto, Cettina, di chiedere un risarcimento in sede civile. E dice la vedova: la cosa che più mi fa male è vedere come, nonostante le condanne fino al terzo grado, lui, l'ex procuratore, si muova per Barcellona Pozzo di Gotto, sua città, come fosse sempre sua eccellenza il signor procuratore generale, come se nessuno sapesse nulla, e gli fanno pure l'inchino, un signorotto feudale. E poi qui Gian Antonio Stella racconta la vicenda di Adolfo Parmaliana, appunto, che si suicidò dopo essere stato accusato di diffamazione perché aveva fatto preparare dei manifesti che ringraziavano Carlo Azeglio Ciampi per aver sciolto il consiglio comunale per ingerenze di criminalità. Giustizia è stata fatta, si leggeva in quei manifesti, la legalità ha vinto. E invece gli è arrivato una denuncia. E lui, la magistratura barcellonese messinese, vuol mettermi alla gogna, umiliarmi, delegittimarmi. Chiudeva con una lettera prima di togliersi la vita: la magistratura ha deciso di gambizzarmi moralmente, sono esausto, non ho più energie per farlo, me ne vado in silenzio. Ebbene, il giornalista e scrittore Alfio Caruso, indagando, e poi la polizia, scoprirono, appunto, in una vicenda molto complicata che Gian Antonio Stella però racconta molto bene, che è stato l'ex procuratore generale di Messina Cassata a creare poi un dossier infamante di accuse nei confronti di questo ex docente universitario. Eccolo qui, falsi dossier preparati dal procuratore sul professore antimafia che si è tolto la vita. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Forza Inter! Forza Inter! Grande Pioli, grande Meazza! Paleggiato il grande del vicinese dall'informazione! Grande Inter! Forza! Forza! Va bene, va bene. Mannaggia, avevo detto 2-1. Porcaccia Eva. Vabbè, dai. Pazienza, gol al 93esimo, pazienza. Andiamo avanti. Allora, come detto, tra un'ora, anzi un po' meno, alle 8.30 avremo ospite Matteo Renzi, presidente del Consiglio, qui a 24 mattina, attenti a noi due, con me, con Oscar Giannino, e ovviamente il tema referendum si impone un po' su tutti i giornali, Tenete duro, ma il 4 dicembre si avvicina, poi se ne parlerà un po' meno. Comunque ieri Renzi era da Lucia Annunziata in un confronto con Landini. Il no difende la casta, questo è il riassunto in titolo di Repubblica di Renzi, mentre Landini replica: tu dividi il paese. Diciamo che sul referendum gli articoli più interessanti che ho trovato e che vi sottopongo sono questi. Intanto il Fatto Quotidiano apre con questo giallo: la RAI imbosca Verdini, pagina 2. Del Fatto Quotidiano. L'accusa è di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, perché Giorgia Meloni dice: io ho partecipato, anzi leggiamo esattamente le sue parole, Alessandro Ferrucci, la intervista, pagina 2 del Fatto. Sono basita, Anzi no, sono anche incazzata, ma preferisco iniziare con toni pacati e ragionevoli per spiegare una vicenda assurda. È questa, racconta Meloni. Qualche settimana fa vengo contattata dal TG2, mi chiedono la disponibilità per un confronto sul referendum da trasmettere alla fine del telegiornale. 8 minuti, 40 secondi a testa per ogni risposta, telecamera fissa, ovviamente contro uno del no. Niente corpo a corpo e io faccio questo faccia a faccia con Verdini di Ala. Poi mi dicono andrà in onda nei prossimi giorni. Bene, aspetto, ma niente. No, rimandato, insistono, ma nulla. Passano 2 settimane. Poi mi dicono che c'è qualche problema. Hanno deciso di cambiare il palinsesto. Avevano troppi confronti registrati. Hanno sorteggiato quale mandare in onda e quale cancellare definitivamente. Ma come sorteggiato? Cos'è la riffa del referendum? Ci rendiamo conto? La verità è che qui Giorgia Meloni poi avanza un'ipotesi diversa, non il sorteggio, ma la verità è che si vergognano di Verdini, lo tengono nascosto, non gli conviene mostrarlo perché stride con il messaggio di Renzi quando dice sono una cozzaglia contro di me. Questo è il titolo del Fatto, la Rai imbosca Verdini e l'accusa di Giorgia Meloni. Poi sul referendum c'è questo famoso audio di De Luca che sempre al Fatto Quotidiano è stato pubblicato. In questo audio De Luca parla con alcuni sindaci e dice ci sono sindaci che sono in grado di portare tante persone a votare. Per la verità Vincenzo De Luca parla poi del sindaco di Agropoli, si chiama Franco Alfieri. Lo definisce come un campione di clientelismo, no? Dice testualmente come sa fare lui la clientela, lo sappiamo, clientela organizzata, scientifica, razionale, come Cristo comanda. Questo dice De Luca del sindaco di Agropoli, che ora viene dunque intervistato da Marco De Marco sul Corriere della Sera, pagina 11. Lui, riconfermato con il 90% dei voti, avvocato, 51 anni, sindaco di Agropoli, dice «Ma si sa, De Luca esagera, ha questo suo modo forte, talvolta strambo di parlare». Ma lei fa clientelismo? Assolutamente no. Ha portato in barca le persone come ha chiesto il governatore. Io vivo sul mare ma non ho la barca. Ha fatto raccomandazioni? Certo, però l'ho sempre intesa alla maniera di Moro, come espressione della carità cristiana. Ecco qui, la carità cristiana, la raccomandazione. Va bene. Oh, che dobbiamo fare? Se non va bene... va bene lo stesso. Sulla stampa appare anche, riappare Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, accusa Renzi. Dopo Roma il premier rischia di consegnare l'Italia alla Casaleggio. L'accusa di Ignazio Marino, intervistato da Giuseppe Salvagiulo, a pagina 7 della stampa, è la vittoria elettorale di Grillo è lo scenario più probabile in caso di vittoria del sì, come dagli ultimi sondaggi, e questo Renzi sta facendo. Ha pensato che avrebbe disinnescato Grillo, invece l'ha rincorso sul terreno del populismo ed è stato un errore strategico. Vabbè, sempre riguardo al referendum c'è questo altro articolo del Giornale, chiederemo conto a Matteo Renzi, è il titolo di apertura del Giornale, eh? Dopo il referendum, case requisite per i profughi. Secondo Massimo Malpica, tutto tacerà fino al 4 dicembre per non influire sull'esito del voto. Ma in realtà, riguardo ai migranti, ai profughi, il governo avrebbe in mano una strategia ed è questa. Siccome ci sono pochi comuni che aderiscono alle procedure SPRAR, cioè la rete di servizi di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, il governo starebbe pensando anche di aumentare la requisizione, finora tenuta più come uno spauracchio, la requisizione di edifici per accogliere i profughi, i nostri immobili ai profughi. Ecco il piano segreto di Alfano. Vedremo se Renzi oggi ce lo smentirà. Per ora c'è stata sia a Goro sia in provincia di Verona 2 requisizioni di alberghi per far fronte all'emergenza immigrazione, ma secondo il Giornale dopo il referendum sarà fatta in maniera un po' più massiccia. Vedremo. E adesso... è il momento. Io, la pallone per Suso in area. Guarda che io avevo azzeccato. Io avevo detto 2-1. No? È vero, Mauro, avevo detto 2-1. Varie volte avevo detto 2-1. Buongiorno, caro Alessandro. Buongiorno. La partita era finita 2-1. La partita finisce quando arbitro fischia tre volte, per parafrasare un grande filosofo del calcio. Mamma mia. Vado a declamarti gli endecasillabi, per sì, i quali un pochino devo ammettere mi sono ispirato, sì, all'epilogo del derby di ieri sera. Il felice epilogo. Sì, un gradito epilogo, diciamo, va bene, così. Va bene. Naturalmente prendo le mosse di più dal Sole 24 Ore di questa mattina e dalle questioni sulla sanità. Ma qua e là. Vado e declamo. E poi mi tolgo di torno. Per tutti i milanisti come Alino, che già si pregustavano le battute, il Sole 24 Ore stomattino consiglia di pensare alla salute, che si prepara infatti a grandi passi l'aggiornamento dei cruciali LEA, e ben faresti se t'avvicinassi a legger per capire se è buona idea. Cambian le cure, i ticket e gli ausili, che erano fermi dal 2002. Se gli ultimi minuti sono ostili, il Malox però resta a spese tue. Basta ceriar di calcio ai calciatori, che molto c'è da leggere più oltre. Per il lavoro gli ammortizzatori, sui conti degli acconti oscura coltre, che tuttavia ti andremo a diradare oggi, domani e il giorno dopo ancora. L'esperto in allegato è da gustare da subito, il futuro già si infiora di provvidi fascicoli in doppietta, preziosi come il pane e il companattico. Alla Perisic mi sfilo la maglietta e corro ad esultar, tu resta al traffico. Col Milan, che le mia che è del Berlusconi, ma il bar la plus dell'informazione. Vabbè, maledetto Mauro, maledettissimo, però straordinari gli endecasillabi di oggi, devo dire, Mauro Meazza, anche se un po' amari per me. Va bene. Allora, la politica, oggi su tutti i giornali c'è anche questa vicenda che ci si porta dietro da un po', delle accuse al Movimento 5 Stelle di avere taroccato le firme per la vicenda di Palermo. Il quotidiano Libero apre addirittura con questa vicenda in prima pagina, il titolo è «Grillini falsari rubano le firme». Anche Repubblica e il Corriere dedicano una pagina a questo tema. Leggo dal Corriere della Sera: Movimento 5 Stelle sulle firme false, si allarga l'inchiesta, il PD accusa è Grillopoli. E c'è soprattutto un profilo di Emanuele Buzzi sul personaggio chiave in questo momento, la pentita che si sfoga, è la deputata regionale siciliana Claudia La Rocca, 35 anni. Ho solo detto la verità, mi ero ripromessa di non scrivere nulla, scrive su Facebook dopo un silenzio di qualche giorno. Sono giorni molto difficili, so che la gente da dietro una tastiera sa essere molto cattiva, so che c'è sempre qualche detrattore del movimento pronto a strumentalizzare la cosa. Però lei racconta, è stata la gola profonda, ha raccontato il fatto di queste firme, come dire, dando anche una svolta alle indagini, raccolte in maniera sbagliata, firme false a Palermo. Lei stessa sa, racconta il Corriere della Sera, che sarà quasi sicuramente espulsa dal Movimento 5 Stelle. Per la verità le espulsioni, secondo Repubblica, sono di più in arrivo, racconta Antonio Fraschilla a pagina 8 di Repubblica, che la linea dura di Grillo è pronta, dallo staff sono pronti a passare dagli inviti alla linea dura. Non appena arriverà un solo passaggio formale della procura sulle firme false per le comunali del 2012, saranno avviate sospensioni d'imperio, assicura Repubblica. Nel mirino ci sono in primis due deputati palermitani, Riccardo Nuti e Claudia Mannino, che mantengono la loro linea fin dall'inizio, quella cioè di non aver avuto alcun ruolo. Ma racconta Repubblica, ci sarà in realtà da Grillo l'espulsione. Staremo a vedere. Oh, tasse. Allora, avete una casa che affittate, una stanza in Airbnb, questa piattaforma internazionale che permette appunto di, ho detto affittato, comunque non so se è il termine giusto per evitare poi, è proprio qui l'inghippo, la questione, se è un affitto vanno pagate le tasse. In ogni caso la norma Airbnb di inserire una tassa per chi dà una stanza o una casa in Airbnb è per il momento saltata. È stato lo stesso Renzi a bloccare un'iniziativa, per la verità, dello stesso Partito Democratico. La proposta era una flat tax al 21%, una sorta di cedolare secca per i proprietari di case che affittano per brevi periodi utilizzando piattaforme web, si pensa appunto Airbnb soprattutto, congelata la tassa. Tra l'altro c'è un colloquio sulla stampa di Beniamino Pagliaro con il responsabile del portale Airbnb Italia, Matteo Stefanelli. Con noi è impossibile evadere, il capo italiano del portale degli affitti dice, si trovi una soluzione semplice. Airbnb vuole trovare un accordo per far pagare semplicemente le tasse ai propri host in Italia. Noi siamo d'accordo con l'idea. Speriamo in una soluzione, dice il country manager italiano della piattaforma, anche se la proposta dell'Airbnb tax proposta e poi ritirata non andava, perché dice era più una web tax che altro, troppo semplicistica. In ogni caso il CEO, il numero uno di Airbnb mondiale, Brian Chesky, cita in ripetizione il concetto di comunità, e il numero uno del dipartimento di public policy, Chris Lehane, sempre di Airbnb, riadatta un classico della politica americana per dire e spiegare cosa pensa Airbnb del nodo fiscale, e cioè questo: leggi le mie labbra, noi vogliamo pagare le tasse, però chiede Airbnb una tassa, come dire, non quella che era stata prospettata, ma una tassa un po' più semplice. Invece non è passato il tema della cannabis legale che era stato proposto in bilancio, non la proposta di legge, ma la proposta di Sinistra Italiana di legalizzare la cannabis e destinare le entrate aggiuntive alla ricostruzione post terremoto, cioè ricostruire le case grazie alla canna libera. Cannabis legale, PD, Lega e Lega votano no a questa proposta. Rimane la proposta di legge in sé sulla liberalizzazione delle cosiddette droghe leggere. Magari ne parleremo nei prossimi giorni, qui a 24 mattino. Lo faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Facebook. Proprio nel giorno in cui, tra l'altro, la stampa dedica una pagina alla nascita, all'apertura, meglio dire, del Canapa Caffè a Roma. Curarsi al bar con la cannabis è meno tossica dei farmaci. Apre il Canapa Caffè, guarda qua Peter Bescapè che prende nota dell'indirizzo, dopo ti do la pagina. Guarda qua Lorenzo Nespoli che prende nota dell'indirizzo, dopo ti do la pagina. Eccolo qua, nasce il Canapa Caffè. Marilena Vinci racconta una pagina sulla stampa. Pagina 19. Devo raccontare di Angela Merkel che si candida per la quarta volta. Noi diciamo, vedete, i politici in ricambio. Angela Merkel punta al quarto mandato. 2005 era cancelliera e ora punta contro i populisti per scongiurare l'odio, per diffondere la democrazia. Angela Merkel ancora in sella. C'è chi la critica, come giornali come Libero e Il Giornale, c'è chi in maniera asettica racconta il perché di questa scelta, mentre è stato trombato Sarkozy, si è presentato alle primarie, le ha perse e praticamente Sarkozy in Francia si ritira a vita privata con Carla Bruni. Questo è il risultato finale. Ma siamo alla carta costa, i selfie. No, per carità, è una cosa tragica, perché si parla di morti. Sapete che quante sono le persone nel 2000, in due anni, già vittime del killfie? Cioè fanno i selfie e muoiono, nel senso che magari li fanno mentre guidano, cretini, li fanno magari sui cornicioni e cadono giù. 127 vittime in due anni del killfie, e c'è chi ha studiato un software in India, Repubblica dedica una pagina a questo, un software per avvisarti quando il selfie è potenzialmente pericoloso. Ma chi se ne frega!